Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Subito informazioni di servizio: sottotiro chiocciola radio24.it per le vostre segnalazioni di storie di mafia, ma meglio ancora di resistenza alla mafia, iniziative, promozioni, storie, volti, voci, tutto ciò che fa resistenza alla mafia dei vostri comuni, nord, centro e sud. Le aspettiamo, non abbiate paura. Seconda informazione di servizio: il mio blog, Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore, anche attraverso Radio 24, comunque con qualunque motore di ricerca. Nel silenzio dei media, dicevamo ieri, con Cristian Abbondanza, in Liguria da anni la mafia sta penetrando sempre di più. Soprattutto in questi giorni, il secolo XIX, in queste settimane, sta dando ampio spazio al caso Bordighera, dove c'è una commissione di accesso agli atti del prefetto, signori miei, nel profondo nord. Perché il prefetto e la sua commissione stanno indagando? Ebbene, perché lì c'è il rischio di infiltrazioni mafiose. Qualcuno, più che di infiltrazioni, parla proprio di una vera e forte e massiccia presenza. Tutti i fascicoli dal 2002 a oggi sono sotto osservazione. Ovviamente l'edilizia è l'imputata principe di quella che può essere stata o è tuttora l'infiltrazione. Allora, noi ieri ne abbiamo parlato della situazione in generale con Cristian Abbondanza per la Liguria. Oggi parliamo con una persona molto particolare. Buongiorno Porchia. Sì, buongiorno. Che è ex segretario della CGIL a Bordighera, quindi non è che rivestiva un ruolo da nulla, anzi, è attualmente responsabile del centro Peppino impastato di Sanremo. Sono stato segretario della CGIL e la CGIL era in prima linea nel denunciare una serie di irregolarità e di situazioni, come dire, che ci sembravano strane. Dopodiché io ho terminato il mio incarico alla scadenza di 8 anni e ho deciso di non proseguire nella mia attività sindacale. Qualcuno dice che però lei dà fastidio a molti e quindi è stato, tra virgolette, cacciato. Quindi lei smentisce questa interpretazione malevola? Questa interpretazione malevola, io penso, facciano riferimento a un altro problema che c'era stato, che era stato quello invece di una polemica che mi aveva visto coinvolto con il ministro Scajola rispetto a una partita del porto di Imperia e che si era poi, come dire, trasformata in una denuncia che avevo presentato contro il ministro per diffamazione. Va bene, comunque insomma lei... una questione direi secondaria, irrilevante. Assolutamente. Comunque lei è una persona che non ha peli sulla lingua, quindi ci descriva un pochettino la situazione di Bordighera, perché qui non ne parla nessuno, ovviamente nel vostro territorio sì, ma di quello che accade non si sa nulla. Bordighera mi pare che mai come adesso sia non soltanto una località di turismo famosa in tutto il mondo, ma un centro di concentrazione di attività mafiose. Ce lo conferma oppure no? Ma da quello che risulta dalle indagini, dalle intercettazioni che sono state pubblicate sui giornali e che sono emerse da queste indagini, il quadro è sicuramente un quadro preoccupante e grave, nel senso che le intercettazioni hanno messo in evidenza che c'erano dei collegamenti molto stretti tra chi svolgeva delle attività imprenditoriali esterne all'amministrazione e ad alcuni amministratori, e che in questo scambio c'era una presenza, se vogliamo, di questi imprenditori anche nel determinare le campagne elettorali, aiuti, favori ai politici, e diciamo che alla fine le indagini stanno accertando che questi imprenditori, soprattutto quelli del Movimento Terra, sono accusati appunto di associazione a delinquere, quindi ci sono, come dire, degli intrecci molto preoccupanti e molto pericolosi. Assolutamente. Ecco, allora, questa è la situazione, certo, reale di Bordighera, che ha portato sostanzialmente a il sindaco prima ha dimissionato tutta la giunta, poi ha ripristinato la giunta, ci sono state fughe, insomma oggi la giunta è stata rinnovata dal sindaco, ha i numeri, come dire, contati in consiglio comunale, perché a seguito delle dimissioni dei consiglieri oggi lui è sostanzialmente con una maggioranza molto traballante, adesso è in corso questo accertamento per quanto certo riguarda la prefettura su questo. Certo, parti. Allora ovviamente il sindaco di Bordighera è il benvenuto se volesse parlare con noi, ovviamente noi lo cercheremo. Senta, Porchia, però mi racconti un po', ecco, lei in questo momento presiede il Centro Peppino in passato di Sanremo. E a Sanremo la situazione qual è? Così, una domanda retorica, ovviamente io la sua risposta l'immagino. La domanda riguarda un po' tutta la situazione del Ponente Ligure. Certo. Laddove c'è un'economia che è molto debole e che poggia sostanzialmente su due grandi filoni di attività. Una è l'edilizia, che è il principale, e l'altro filone d'attività è il turismo. In particolare l'edilizia ha rappresentato, come dire, l'industria principale di queste, da queste parti, dove c'è stata una cementificazione selvaggia, cioè quella che un tempo ha una bellissima costa è stata oggetto in realtà di interventi di costruzioni residenziali, in particolare di seconde case, molto importante. Porca, però quello che lei sta dicendo è straordinariamente importante, fa bene a dirlo, però io le lancio lì una parolina: casinò. Sì, beh, casinò ha parlato fino a... le volevo dire che poiché l'industria principale era quella dell'edilizia, sì, è proprio sull'edilizia che si sono concentrate le attenzioni di tutti, compresi quelli che eventualmente avevano a mente affari, come dire, illeciti. No, ma questo non lo metto in dubbio. E quindi, dato che era poi la più importante, l'intreccio è stato con la politica, perché è evidente che se io acquisto un terreno agricolo e lo trasformo in residenziale... Certo, è un gioco facile. E il casinò? Il casinò è da sempre, il casinò è un crocevia di passaggio, e dove è facile per chiunque riciclare del denaro che ha delle provenienze, come dire, che non si vogliono... comunicare. Certo, ora, certo. Devo dire che per quanto riguarda il casinò, più che alla fatti di cronaca, per quanto riguarda, come dire, infiltrazioni mafiose, cioè la mafia aveva tentato negli anni scorsi, sì, addirittura di appropriarsi, sì, del casinò, presentando proprio una cordata, certo, che voleva prendersi la gestione del casinò. Oggi il casinò, più che oggetto di queste attenzioni, è oggetto invece di una situazione molto imbarazzante che ha riguardato invece la, se vogliamo, la corretta gestione del casinò. E di questo, e di questo ne parleremo in un'altra occasione, perché ovviamente non finiremo qui. La nostra chiacchierata sulla Liguria, su Bordighera, su Sanremo, oggi l'abbiamo soltanto proseguita, ma altri spazi ci saranno. Io ringrazio dunque questo volto, questa storia e le sue denunce, Claudio Porchia, responsabile oggi del Centro Peppino in passato di Sanremo, fino a ieri segretario della CGIL a Bordighera. Ringrazio in redazione Laura Faggin, in studio Peter Bescapè, Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.